Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Beh, insomma, indipendentemente da sport o non sport, la notizia della scomparsa di Mike Bongiorno, appena battuta, proprio in questo istante battuta dall'ANSA, e confermata quindi l'indiscrezione di Sky TG24, non può lasciare credo indifferente nessuno, visto che Mike Bongiorno ha inventato la storia della televisione in Italia, ma soprattutto attraverso quello ha cambiato la storia del costume italiano fin dalla metà degli anni 50. Ovviamente lo spazio di A Tempo di Sport è a disposizione dei colleghi della redazione o della redazione spettacoli in caso di allestimento di programmi speciali o comunque di approfondimenti su questa vicenda. Noi per il momento andiamo avanti mentre Flavio Suardi si sta provando a scatenare alla ricerca di una voce di Mike Bongiorno, ovviamente in campo sportivo. Sapete, credo tutti, che la sua grande passione, la sua grande squadra del cuore era la Juventus. Il punto sulle qualificazioni mondiali nel consueto appuntamento internazionale del martedì con Fabio Tavelli di Sky Sport 24. Fabio, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Dunque, è arrivata come previsto la smentita di Henry rispetto a questo durissimo scontro di opinioni pubblicato ieri dal Parisien, secondo cui tutto sarebbe nato nella sala ovale, nella sala rosa, intorno al tavolo ovale di Clairefontaine, quindi della Coverciano di Francia, la Coverciano parigina. Avrebbe aperto le ostilità Domenech dicendo, parliamo di venerdì scorso, vigilia di Francia-Romania, dicendo: ieri vi ho visti con poca fame, mi è rimasto l'appetito a me di vedervi impegnare sul serio alla vigilia di una partita così importante. A quel punto ha preso la parola Henry e, con lo stesso tono pacato usato da Domenech e senza mai alzare ad un'ottava i toni, per l'appunto, gliene ha dette per i porci, come si usa dire. Questa smentita è arrivata con tutto comodo. Provo a leggere. Certe mie frasi sono state deformate, non ho mai messo in discussione la qualità del tecnico. Venerdì non è successo nulla di particolare, c'è stata una discussione come ce ne possono essere fra gruppo e allenatore, era una discussione costruttiva, qualcosa che doveva rimanere tra tecnico e giocatori. Non c'è stato, come mi è stato fatto dire, alcuno scontro, anzi quando siamo usciti dallo spogliatoio tutti erano contenti. Allora, lasciando stare la contentezza, mi pare, Fabio, che sia una di quelle smentite che rafforzano, semmai. Beh, certamente Henry dà una notizia. Beh, intanto Henry si candida di fatto per una carriera politica ad altissimi livelli, perché queste sembrano fotocopiate da altre dichiarazioni quando siamo in ambiti diversi. Credo che quando lui dice cose che avrebbero dovuto rimanere, fa una chiara ammissione che certo, tutto quello che è stato raccontato è vero, che c'è qualcuno all'interno della squadra che lo ha raccontato, tra l'altro in maniera molto dettagliata, probabilmente qualcuno che non gioca, cioè qualcuno che ha più interesse da altri. Come spesso accade in questi casi. Come è normale che accada, io non voglio dire che stiamo in questo mondo già da qualche anno, per cui sappiamo bene che funziona così. E devo dirti che stamattina mi aspettavo dalle Parisienne un rafforzamento di questa cosa, invece si è un po' più affidato alle opinioni dei tifosi, soprattutto nella versione online. L'Equipe, che doveva rincorrere questa cosa, ha ovviamente preferito abbassare e ha chiaramente cavalcato giornalisticamente in maniera corretta, perché si fa così, più la smentita che tutto il resto, perché l'aveva scritto le Parisienne per primo. Insomma, la sensazione è che tutto questo sia accaduto. Devo dire che sia anche accaduto magari nei toni di Domenech e di Henry, che non sono certamente mai toni molto esagerati, sono magari toni felpati. Il vero grande mistero a questo punto è che cosa tenga Raymond Domenech sulla panchina della Francia. Cioè, questo è il vero tema di discussione, perché sinceramente, dopo tutto quello che è successo, non solo oggi, cioè ci sono allenatori esonerati non per molto meno, ma per moltissimo meno, per cui evidentemente c'è qualcosa che noi non sappiamo. C'è anche una gestione, dunque se, risaliamo pure un pochino indietro. Domenech si presenta ai mondiali del 2006 in condizioni già abbastanza difficili, cioè già abbastanza discusse, eccetera, e poi invece, grazie a Zidane, al ripescaggio di Zidane, porta la Francia in finale. Quella finale la lasciamo stare come va, ma certamente la Francia la gioca meglio dell'Italia. E poi ricordiamoci che la Francia ha battuto il Brasile, mentre la nazionale italiana ha come dire, avuto un percorso, pur incontrando la Germania in semifinale, ma ricordiamoci bene di che Germania stiamo parlando, la Francia può sempre dire che ha battuto il Brasile. Certo. Quindi, cioè, va, nonostante fosse già un personaggio discusso, fosse già un personaggio impopolare, fosse un personaggio sgradevole anche per molti aspetti, si è parlato e si è raccontato, parlo di anni non vicinissimi, ma insomma di biglietti omaggio venduti fuori agli stadi, insomma delle cose, sì, delle cose non simpaticissime sul conto di questo signore. L'esito del mondiale gli garantisce una prosecuzione contrattuale e comunque a tutto titolo, insomma gli dà tutti i titoli, no? Gli allunga la vita all'europeo professionale, arriva all'europeo, con l'europeo finisce fuori come una ramazza, sia pure in un girone molto difficile, e contro l'Italia, tra formazione di partenza e cambi in corsa, ne combina peggio di... No, cioè, credo faccia uno dei record negativi mondiali di qualsiasi tecnico, robe che in C2 secondo me non ti fanno finire la partita e ti cacciano all'intervallo. Qualche presidente sì. Ecco, continua ad andare avanti. Si arriva a venerdì già con una Francia con un piede mezzo fuori dalla qualificazione, perlomeno da quella diretta. Succede quello che succede, perché questo evidentemente è accaduto. Siamo a martedì ormai e la federazione ha lasciato che in questa condizione la Francia si giocasse la partita chiave in casa contro la Romania e a questo punto anche quell'altra, un po' meno chiave perché ormai la situazione è compromessa, ma quasi, di domani con la Serbia. Guarda, io vedo sull'equipe in questo momento che sia Jean-Pierre Scaletta, che è il presidente della federazione francese, sia Gérard Houllier, che è comunque direttore tecnico delle squadre nazionali, sono a Clairefontaine alla vigilia del match contro la Serbia prima di partire per Belgrado. Credo che la federazione voglia cercare di capire un po' di più, e sarebbe anche abbastanza ora. Credo anche che Houllier possa essere il candidato numero uno se la Francia dovesse perdere in Serbia e quindi abbandonare definitivamente le speranze di qualificazione diretta, ma io credo che anche vincendo potrebbe non farcela. E si è parlato molto in Francia di dare a Gérard Houllier, che è un signore non più giovanissimo, ma che ha certamente un appeal, un fascino, una credibilità superiore a Domenech, insieme a Bogossian, la possibilità di giocarsi lui e di centrare lui la qualificazione, magari già per preparare il terreno a una nuova guida tecnica. Mi pare che all'interno di un cambiamento generazionale, che comunque c'è stato, perché la Francia comunque ha dovuto cambiare molti giocatori, e a parte Thierry Henry diciamo che ha cambiato tanto, insomma, mi sembra che complessivamente arrivi in ritardo questa voglia di Scaletta di vederci chiaro, perché probabilmente era molto chiaro anche da prima. In clamoroso ritardo. Siamo arrivati al primo intervallo di giornata, prima di dare la linea ai colleghi che aggiornano la situazione sulle strade, vi ripeto, stanno arrivando alcuni particolari, che è morto Mike Bongiorno, la notizia si è presa da una fonte a Monte Carlo. Il decano dei presentatori televisivi è scomparso la notte scorsa per un infarto nella sua casa nel Principato di Monaco. Torniamo in collegamento con Fabio Tavelli e ampliamo il panorama. Dunque, la Francia è praticamente non fuori dal mondiale, ma è fuori dalla qualificazione immediata e dovrà giocare gli spareggi. Il Portogallo, ci dirai tu adesso per bene com'è la situazione. Quella dell'Argentina, guardando il calendario, non dico sia drammatica, ma quasi, mi pare. Ma quella dell'Argentina è difficile, perché prossime partite: Paraguay-Argentina, Uruguay-Argentina e Argentina-Perù. Diciamo che Argentina-Perù è chiaramente la più facile, però attenzione, perché l'Argentina gioca con la Colombia e con l'Ecuador, e ci sono in programma nel prossimo turno Bolivia-Ecuador e Uruguay-Colombia. L'Uruguay potrebbe avere ancora una chance se sì, l'Argentina dovesse non farcela contro il Paraguay, e soprattutto anche da un punto di vista dei tempi, perché le due partite che interessano l'Argentina si giocano prima della gara di Asunción in Paraguay, quindi la situazione del girone è chiara: il Brasile è già qualificato, il Cile e il Paraguay hanno 27 punti, diciamo che al Paraguay manca l'ultimo colpo per andare definitivamente ai mondiali. L'Argentina ha 22 punti, se dovesse perdere in Paraguay è a tiro sia di Colombia che di Ecuador, ma potrebbe rientrare anche l'Uruguay, e attenzione perché anche il Venezuela ha 18 punti, quindi veramente se l'Argentina torna da Asunción con una sconfitta, rischia veramente di aprire una voragine dietro di sé, potrebbe addirittura alla fine della prossima giornata essere quinta. E questo avrebbe del drammatico. Ho letto dei titoli di giornale stamattina molto, molto efficaci. Sarebbe un mondiale illegale contro senza l'Argentina. È una frase di Kakà, mi pare molto bella, sì, no? molto bella, sportiva, molto, molto lusinghiera. Sì, certamente non la pensano come lui i colombiani, piuttosto che quelli dell'Ecuador o quelli dell'Uruguay. Però è vero, insomma, l'Argentina a casa toglierebbe molto al prossimo mondiale, e sinceramente facciamo il tifo per vedere Messi al mondiale, in un mondiale che già probabilmente perderà uno tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Io credo che anche mettere a rischio la presenza di Leo Messi sarebbe un po' un peccato. Sul turno di mercoledì, di domani sera e di domani notte, per quello che riguarda il Sud America, poi ci aggiorneremo, se, appuntamento fissato sin da ora per il pomeriggio di giovedì. Mi piaceva soffermarmi su un tema che riguarda, poi ce n'è qualcun altro minore, ma che riguarda l'Italia, e cioè questo lamento di Lippi della scorsa settimana, prima della partita, perché c'è poca attenzione per l'Italia, perché non frega niente a nessuno, ha detto lui col suo linguaggio indiretto di quando gli sale un pochino la pressione. Questo mi pare sia sempre accaduto comunque nella storia delle qualificazioni sia europee che mondiali, soprattutto quando non c'è un girone che ti provochi emozioni. Sì, spesso l'Italia è finita in gironi poco emozionanti, e questo certamente lo è, perché Georgia, Montenegro, Cipro, Bulgaria, Repubblica d'Irlanda non sono squadre per le quali valga la pena portare al massimo l'eccitazione. Io faccio abbastanza mia una frase di Mario Sconcerti, e cioè se l'attesa fosse stata tanta, dopo aver visto Georgia e Italia, anche la delusione sarebbe stata tanta. Quindi andiamoci piano a caricare le attese, perché poi quando i risultati non sono positivi in termini di gioco si rischia la depressione. Ho letto anche con molta attenzione quello che ha scritto Alberto Costa questa mattina, e lui dice: beh, se mi presenti una nazionale senza Cassano, senza Del Piero, senza Totti, senza interpreti di grande spessore e di grande fascino, poi è difficile che Palombo piuttosto che Criscito possano entusiasmare. Aggiungerei, nelle condizioni in cui l'Italia, ringrazia che c'è un girone noioso che non suscita appeal, perché se ci fossero, non dico due, ma anche soltanto una nazionale davvero forte con cui misurarsi, non so come va a finire. Sai, secondo due cose, a parer mio Lippi non ce l'aveva con i tifosi, ma ce l'aveva con i giornalisti. Sì, è a un livello di sopportazione ormai al limite, insomma, le conferenze stampa non ha più tanta voglia di farle, anche perché insomma la continua richiesta di informazioni su Cassano credo che gli abbia ormai mandato il vino in aceto. Però è normale, perché cioè, altri commissari tecnici sono stati trattati peggio. Detto questo, penso anche che lui abbia ragione quando dice: noi siamo una squadra, e l'Italia storicamente è una squadra da tornei e non da gironi di qualificazione. Se ci fosse stata un'altra grande squadra, probabilmente l'Italia avrebbe anche offerto un rendimento migliore. Non c'è niente di nuovo, l'Italia ha sempre zoppicato nei gironi di qualificazione, lo ha sempre fatto con altri commissari tecnici, con altri calciatori, è sempre così, insomma, non è cambiato nulla. Da un punto di vista internazionale, cioè da un osservatore come il tuo, com'è la vicenda, come viene vissuta, vista, seguita e valutata la vicenda Oriundi? Ci sono prese di posizioni sempre più nette in Italia, per esempio stamattina si è dichiarato contrario Campana, ma è abbastanza ovvio, comunque motivando mi sembra le scelte. Ieri era toccato a Azeglio Vicini, ex storico commissario tecnico italiano. Che valutazione si dà in giro di questo ricorrere, no, alla carta dell'Oriundo? Ma guarda, io faccio mia quello che pensa Beppe Bergomi, e cioè che devono giocare in nazionale i giocatori italiani, punto. Il fatto di potervi ricorrere, guarda, da un punto di vista spettacolare e da un punto di vista della possibilità di offrire un bello spettacolo, non c'è dubbio che la possibile apertura anche a giocatori di altre nazionalità è una ipotesi che non viene vista in termini negativi, anche per una questione, ti ripeto, di proporre uno spettacolo che sia il più entusiasmante possibile e il migliore possibile, con giocatori che magari non avrebbero spazio in altre nazionali e lo possono trovare anche in queste. Detto questo, la mia opinione personale è totalmente contraria, credo che si possa sempre fare spettacolo anche senza ricorrere al mercato all'interno delle nazionali, e quindi da questo punto di vista per me Amaury deve giocare con il Brasile e punto, insomma, senza grandi dubbi. Ti leggo ancora infine per competenza territoriale una mail che mi è arrivata da Kyoto, questo corrispondente si chiama, corrispondente, questo ascoltatore che vive tra Honolulu e il Giappone, si chiama Cesare Polenghi, ogni tanto scrive perché segue degli avvenimenti di laggiù, per la verità questa partita a cui si riferisce, Olanda-Giappone, si riferiva, mi pare si sia giocata in Olanda, ma insomma racconta da Kyoto di aver visto queste le immagini, di aver seguito questa partita, di aver di essere un po' insomma sobbalzato per i commenti italiani quando si è parlato di dell'infortunio di Sneijder. Tu hai seguito bene questo evento o te lo racconto io? No, beh, io l'ho seguito bene, nel senso che intanto l'allenatore dell'Olanda ha detto che Sneijder gli ha detto ho sentito fare crack, e quindi sai, crack, però è vero, nel momento in cui la notizia che Sneijder era già uscito dal campo, poi sai, quando non vedi la partita perché non hai le immagini, è chiaro che qualsiasi voce può diventare un urlo, per cui alla notizia che Sneijder era uscito dal campo, ed era uscito dal campo zoppicante piuttosto che in barella, noi ci siamo allertati, abbiamo anche telefonato all'ospedale, abbiamo fatto un certo giro di cose, sappiamo bene che anche l'Inter si è attivata in maniera velocissima, si è passati ovviamente dalla frattura alla distorsione alla forte botta, e adesso magari Sneijder potrebbe già giocare contro la Scozia. Ma Cesare Polenghi però, che mi ha inviato un filmato, mi fa notare come in realtà lui abbia subito un intervento assolutamente di gioco, mentre nel primo tempo aveva commesso un fallo orribile su un avversario e avrebbe dovuto essere espulso, ma proprio di corsa. Questo non so se... No, questo io sinceramente non lo sapevo, però più che le questioni disciplinari di Sneijder, a noi giornalisticamente interessava l'importanza. Ma non c'è... Sapere che c'è o non c'è contro il Barcellona per noi è una notizia. Ma su questo non c'è alcun dubbio. Ma infatti, questo corrispondente che vive, ripeto, questo ascoltatore che vive in Giappone, ovviamente l'ha vista da un'altra ottica. No, ma non c'è dubbio, perché quando non vedi tutte le cose, e non puoi vedere tutto, perché tra l'altro questa era un'amichevole, quindi era anche in contemporanea con partite ufficiali, quindi non avevamo il segnale, noi abbiamo trasmesso soltanto delle foto con lui per terra, davvero quando c'è il passaparola può succedere di tutto, certo, davvero, e quindi certo, c'è anche il rischio a volte di incorrere in errori. In questo caso però, con tutte le cautele del caso, credo che non siamo andati sotto la sufficienza, nel senso che venivano riportate comunque notizie che apparivano sui siti olandesi. Ma secondo ora, me... Tu ti ricorderai quando ci fu l'incidente di Felipe Massa, che un piccolo errore di traduzione, piccolo mica tanto, fino a un certo errore punto di traduzione nel racconto del medico, aveva fatto titolare a molti sui siti Massa in fin di vita, proprio perché il medico aveva detto questo, ma probabilmente una sua conoscenza dell'inglese non perfetta aveva ingenerato l'equivoco. Fabio, io ti ringrazio, ti do appuntamento a giovedì per il commento di questo turno infrasettimanale. Ok, ciao a tutti. A presto allora, Fabio Tavelli, e chiederei un paio di minuti di pazienza, scusandomi preventivamente con i colleghi della redazione che devono aggiornare i mercati, perché Flavio Suardi è riuscito a ripescare la voce di Mike Bongiorno, un frammento che si riferisce a una serata trasmessa da Rai 1, una serata dedicata ai bambini dell'ospedale Gaslini di Genova, in cui Mike Bongiorno aveva presentato una squadra per amico. Credo che sia il primo e minimo omaggio che possiamo fare alla memoria ormai purtroppo di quest'uomo, ripeto, che ha cambiato la storia del costume italiano. Siamo tutti pronti? Allora mi raccomando, accoglieteli come si deve, Eccoli qua i grandi protagonisti della stagione. Cominciamo con Gianluigi Buffon. Lilian Thuram. Ciro Ferrara, che abbiamo visto poc'anzi, ma anche lui deve fare la passerella. Alessio Tacchinardi. Edgar Davids. Pavel Nedved. David Presidente. Zambrotta. Di nuovo Alessandro Del Piero. Gianluca Pessotto. Mark Iuliano. Igor Tudor. Marco Di Vaio. Alessandro Birindelli, Antonio Conte, Mauro Cavoranesi, Paolo Montero, Salvatore Presi, Marcello Salas, Antonio Chimenti, Cristian Zenoni, Landry Bonquat, il giovane francesino, Marcello Zalaieta, il grande veterano della Juve, Michelangelo Rampulla, e infine il grande allenatore della Juve, facciamogli un bel applauso, Marcello Lippi. Eccoli qua. Signori fotografi, fate una bella fotografia, perché una foto così non la vedrete mai più. Eccoli qua, pensate. Vorrei fare un calcolo di che valore abbiamo qua, eh? Sarebbero miliardi e miliardi. Ragazzi, mi raccomando, sempre in gran forma, Una voce che ha fatto la storia dell'Italia contemporanea, che abbiamo avuto il privilegio di riascoltare, in un'occasione in cui c'era anche in questa voce storica l'entusiasmo davvero di un bambino. Lippi, questa squadra ha detto poco fa, cioè la nazionale, ha qualità non solo atletiche ma anche tecniche, abbiamo armi superiori a quelle che ci vengono attribuite, ma non sentiamo il problema del gol. Domani può segnare anche un loro difensore un'altra volta o Buffon di testa, l'importante è vincere. Lippi stamattina era stato fatto oggetto di grandi applausi, di ovazioni addirittura da parte di un paio di migliaia di tifosi torinesi, quindi presumibilmente juventini, in tribuna allo Stadio Olimpico di Torino per seguire l'allenamento degli azzurri a porte aperte, e poi ha provato squadra, formazione, schemi. Ci sono altre notizie di giornata interessanti. Una è brutta certamente per il Genoa, perché si è infortunato seriamente Juric nell'ultimo allenamento, leggo dall'agenzia, con la nazionale croata prima della partita di domani, ha riportato un infortunio serio al ginocchio destro, interessamento possibile del legamento collaterale interno, potrebbe averne per almeno per settimane, e questa pare sia la migliore delle ipotesi che viene formulata in casa a Genoa. Di Genoa parleremo domani in maniera approfondita con il suo allenatore, insomma con il suo mentore, e cioè con Gasperini. Adesso darei la linea a Roberto, che ha chiamato da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Le volevo chiedere una cosa. Sì. Nell'82 ero soltanto un bambino e mi è sempre rimasta la curiosità di sapere per quale motivo in finale, per l'infortunio di Antognoni, Berezovsky era un difensore al posto di Antognoni Bergomi, invece magari di un sostituto naturale che poteva essere D'Ossena. Una curiosità come tante. Magari lei ha parlato con Berezovsky di questo. Sì, grazie, sì, l'ascolto per radio. Grazie a lei, Roberto. Ero anche a Madrid, quindi insomma la seguì da vicino. Berezovsky non aveva, insomma, non si fidava poi così tanto di D'Ossena dal punto di vista tattico, ma soprattutto da un punto di vista della gestione della fatica, nel senso che D'Ossena, secondo lui, era uno che dava molto inizialmente e poi tendeva a spegnersi. Questa è una prima spiegazione. In realtà, oltre a questo, ma prima di questo, Berezovsky aveva studiato una formula di contrapposizione alla Germania che prevedeva di giocare in maniera speculare rispetto a loro. Loro giocavano con quel numero di difensori, con quel numero di centrocampisti, con quel numero di attaccanti, sicché decise che le marcature, come si usava allora, le marcature chiave, e sarebbero state quelle portate, effettuate con Gentile, con Lovati e a quel punto con Bergomi, in modo da tenere Cabrini libero alla marcatura e libero di avanzare. Se lei ha visto quella partita, se la ricorda vagamente o se l'ha rivista in tempi più recenti, avrà notato che i due assaltati, a parte la forma straordinaria di Bruno Conti di allora, a parte la forza di inserimento di due centrocampisti come Tardelli e Oriali, ma i due veri incursori di quella partita costantemente furono Cabrini e Scirea. E questo, gli sganciamenti di Scirea erano consentiti proprio dal fatto che poteva andarsene a cercare di far gioco anche in area avversaria, come avvenne nella preparazione del secondo gol di Tardelli, sapendo che le spalle erano coperte. Mauro, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno, è sempre un piacere risentirla, grazie per avermi chiamato. Ma io volevo solo dire due cose riguardo l'esternazione di Mister Lippi, che peraltro sta facendo di tutto per risultarmi sempre meno simpatico, ma questa è un'opinione personale. Io volevo chiederle questo, ma quando lui era dall'altra parte, cioè era un allenatore di club piuttosto che seduto sulla sponda ad aspettare che passasse il cadavere di Donadoni, tra virgolette, non è che a lui interessasse molto quello che succedeva alla nazionale, o sbaglio? Io non me lo ricordo fare plausi attraverso stampa alla nazionale piuttosto che incitare a seguire la nazionale. No, ma questo vale per tutti, cioè ciascuno recita la parte del momento, insomma, no? E calcola in base e si comporta in base agli interessi del momento. Questo riguarda Lippi, riguarda Cappello, riguarda chiunque, insomma. Però posso dire ancora una cosa? Come no? Rimpiango Berzot, avevo solo 15 anni, mi aggancio a quello che ha detto il precedente ascoltatore, cioè avevo solo 15 anni, però rimpiango il modo che aveva di fare le conferenze stampa Berzot e tutto un altro. Ma forse perché lei, io lo dico con grande affetto, perché di Berzot mi onoro di essere amico, ma forse perché lei non le ha vissute, non le ricorda, perché le conferenze stampa e gli incontri con Berzot erano molto, ma molto più feroci di quanto non siano quelle di oggi con Lippi. Allora si arrivava, insomma, in più di una volta, e lo ricordo personalmente, si arrivò non lontani dallo scontro fisico, ma quasi, ai tempi di Berzot. E ovviamente questo dipendeva da un livello di provocazioni da una parte abbastanza elevato e dall'altra da un carattere non facile, come era certamente anche quello di Berzot. Poi i canoni di simpatia sono un'altra cosa, ma non creda che allora fosse un idillio, anzi era peggio di adesso, questo glielo posso garantire. Alessandro ha chiamato da Forlì, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Due considerazioni. La prima era una precisazione. Savelli prima parlava di Sneijder, dell'intervento duro, il vostro ascoltatore, l'intervento duro di Sneijder nel primo tempo, eccetera. In un articolo della Gazzetta, all'indomani dell'infortunio, proprio il CT dell'Olanda disse che Sneijder aveva giocato il primo tempo con degli interventi da cartellino rosso e non si... Anche lui avrebbe chiesto spiegazioni per questo, perché... A Sneijder, sì, ma difatti, in particolare... Lui aveva effettivamente esagerato, insomma, in quella partita. In particolare, al limite dell'area avversaria, davvero, fa un'entrata a forbice a Zompo, che l'arbitro lo ammonisce, e lui tra l'altro non si scusa nemmeno con questo giapponese che resta a terra per parecchi minuti, ma è un intervento da espulsione, ma mai. Incredibile addirittura, perché poi era una partita amichevole, tra l'altro. Esatto. L'altra cosa che volevo dire era questa, su Lippi, riguardo Lippi. Io sono interista e non voglio assolutamente comunque valutare le sue considerazioni sui giocatori che sceglie. Lui ha fatto una scelta, gode dell'immunità, del fatto di aver vinto il mondiale, quindi ha una certa libertà di scelta, eccetera. Non lo capisco nei suoi atteggiamenti, ma questo vale poco, insomma. Secondo me arriverà a un punto che spero di no, ma come con la Confederation probabilmente sarà lui stesso da mettersi da parte, insomma. Ma a parte quello, lui dice che la gente non gli frega niente alla nazionale. Io onestamente non riesco a guardarla perché non mi esalta, insomma, mi annoio a guardare la nazionale, onestamente. Non voglio discutere le scelte, però purtroppo credo che ci siano giocatori mediocri, ecco, che ci ostiniamo a farli con la scusa del fare gruppo, fa giocare giocatori mediocri, e onestamente non mi emoziona più. Quindi se devo perdere del mio tempo libero per guardare una partita che mi annoia, onestamente non lo faccio, tutto lì. È molto chiaro, grazie Alessandro. Farei una parentesi, andando a ripescare una voce che non ho avuto il tempo di trasmettere ieri e me ne è molto dispiaciuto, perché è un allenatore giovane, è il protagonista di un'avventura in Serie B assolutamente in attesa, è l'allenatore della capolista di Serie B, sicché sentiamo la voce di Moriero. Abbiamo sofferto i primi 10-15 minuti dove Lecce veramente ci ha messo in difficoltà, ha fatto il gol, ha preso un palo, un paio di occasioni mancate, poi comunque i ragazzi non si sono scomposti, sono andati sempre avanti, hanno cercato di fare quello che sanno, aumentando anche il ritmo, abbiamo trovato poi il pareggio e poi è stato molto più facile. Io credo comunque che il Lecce abbia disputato un'ottima partita e il Frosinone ha veramente fatto una grande gara contro una grande squadra. Non ci poniamo limiti assolutamente, ho un gruppo di ragazzi molto giovani che mette da parte soprattutto le idee personali, gli obiettivi personali, proprio perché pensa da squadra. Mi spiace per i tifosi del Lecce, ma sicuramente si rifaranno alla prossima. Beh, insomma, Moriero che da leccese va a vincere a Lecce sul campo di una delle favorite per il ritorno in Serie A e lo fa alla guida del Frosinone, e il Frosinone è l'unica squadra di Serie B a punteggio pieno, insomma, mi sembra che potesse essere sottolineato, non l'ho fatto ieri, ripeto, lo faccio con piacere oggi. Molte società si stanno passando la voce, Moriero è uno di quei tecnici giovani da seguire, da mettere nel mirino, insomma, da seguire in prospettiva. È molto giovane, ma sembra avere le idee particolarmente chiare. Torniamo in onda con l'intervento di Valentino, che ha chiamato da Piacenza. Buongiorno. Ah, buongiorno signor Garanzini. Dica. Complimenti. Grazie. La mia domanda è sul Champions League. Sì. Le nostre squadre, io vedo la Inter, la Juve a livello da passare il girone, però vedo, visto l'organico del Milan e Fiorentina, vedo molto debole. Volevo sapere la sua opinione in generale. Ma no, io penso che il girone eliminatorio sia superabile da parte di tutte. Certo farà un po' più di fatica la Fiorentina, perché ne passano 2 su 4, il problema è la terza. Non so, i pronostici non sono mai stati sinceramente il mio forte. Io sento, come l'anno scorso, sento un po' tanto entusiasmo autunnale e che poi in primavera è destinato a ridimensionarsi. L'entusiasmo c'è, lo stesso dell'anno scorso, poi sappiamo com'è finita, vediamo come va quest'anno, ecco, mettiamola così. Dobbiamo arrivare al ripasso di storia, che oggi è, come vi ho anticipato ieri, leggermente anomalo, e quindi intanto sentiamo la sigla. Sembra ieri. È un anniversario quello che celebriamo oggi, è un anniversario di una nascita, quella che avvenne l'8 settembre del 19, giorno, mese e anno in cui nacque Gianni Brera. Quindi Gianni Brera oggi avrebbe compiuto 90 anni e l'omaggio della città di Pavia è duplice, visto che oggi all'aula Foscolo dell'Università di Pavia alle 17.30 viene presentato un volume di Giulio Signori, uno storico giornalista, collega e amico di Gianni Brera. Il libro si chiama Viva Brera, Basso Brera, una vita contro. Tra qualche tempo, domenica 27 settembre, in occasione di una partita interna del Pavia, verrà scoperta una targa all'interno dello stadio che intitolerà la tribuna centrale dello stadio di Pavia a Gianni Brera. Noi vi facciamo riascoltare la voce storica di Gianni Brera insieme a quella, così per soprammercato, di Nereo Rocco. Si confrontano su Rivera. Io penso che Rivera sia un grandissimo stilista, molto intelligente, come tale in grado sempre di intuire quale sia la situazione migliore per sé. Aveva voglia di correre, lui non sa correre, non è un podista, no, sennò sarebbe un grandissimo interno. Lui invece è per me un mezzo grande giocatore. Sì, non corre tanto, ma se io voglio avere il gioco, se io voglio avere la fantasia, se io voglio avere dal primo al 90° minuto l'arte di sempre di capovolgere una situazione, questa me la dà soltanto Rivera con i suoi lampi. Ecco, io non voglio esagerare perché so che è soltanto football, è un poco è un genio come giocatore. Le voci di Brera e di Rocco, niente meno. Ripeto, Brera oggi avrebbe compiuto 90 anni. Torniamo agli amici già in collegamento. Marco da Modena, buongiorno. Sì, salve Garanzini, volevo solamente fare una precisazione. Per quanto riguarda il gol di Palumbo, sembrava che avessimo vinto il mondiale. Il gol di Palumbo, che io non riesco poi a capire come fanno fare a dare il gol a, a Palumbo, che praticamente era un tiro inesistente verso la porta, ecco, voglio dire. E poi anche Cannavaro, che si permette già di criticare per quanto riguarda Santon, devono giocare, punto e basta, e dare il massimo di loro stessi. Sì. E anche, scusi, l'ultima cosa, poi la lascio, e anche gli stessi giornalisti non fanno mai delle domande importanti a Lippi, che si rende sempre più antipatico. È solo una gran fortuna fino adesso, perché è baciato dalla fortuna quell'allenatore lì, perché se cambia un po' il vento è già finito anche lui. Niente, volevo fare questa considerazione. La grazie a lei, Marco. Andiamo a Bari da Lino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, devo fare due considerazioni e poi una battuta, se possibile. Sì. È quella che mi preoccupa. Lei è un grande. Mm. Allora, mi ascolti, io credo che voglio tornare sulla questione psicotecnica della non convocazione di Antonio Cassano. Io credo che Cassano non va inserito in uno schema, perché Cassano è come Kakà, come me, va lasciato. È come chi, Lino? Ho esagerato. Come Messi, come Kakà, voglio dire, vanno giocatori che non hanno bisogno di uno schema, vanno lasciati e lasciati giocare, perché sì, sono, possono inventarsi il loro gioco in qualsiasi momento. Uno, due, abbiamo tre giocatori che farebbero paura a qualsiasi nazionale, tre attaccanti, che sarebbero Cassano, Palotelli e Giuseppe Rossi, e sarebbero gli altri a preoccuparsi di questi tre attaccanti e non noi a preoccuparci di che abbiamo di fronte con questa nazionale che abbiamo. Tre, volevo fare una battuta sull'attaccante che il Milan non ha preso, e ha fatto bene a non prenderlo, c'è calato in casa, che serve prendere un altro attaccante? Io ero un po' preoccupato della battuta, invece era meglio la battuta delle considerazioni, sinceramente, dal mio punto di vista, perché questo terrore che si spargerebbe nel mondo nel caso in cui l'Italia schierasse Balotelli, Cassano e Rossi, ma io, al momento non riesco a intuirlo, poi per carità potrebbe anche aver ragione lei. Io continuo a domandarmi, insieme a Gianni, per esempio, Gianni Ardita, che ha scritto ieri questa mail, dice: ma se Cassano è questo fuoriclasse assoluto, naturalmente lui ci mette le virgolette, giustamente sulla parola fuoriclasse, diventato anche così buono d'animo e col carattere così docile, com'è possibile che giochi ancora nella Sampdoria e non l'abbia cercato nessuna grande squadra d'Europa? Anche questa è una domanda che ci si può porre, se, con tutto rispetto per la Sampdoria, intendiamoci. Michele, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Purtroppo il mio intervento, io sono un tifoso juventino, raggruppa un attimo gli ultimi due interventi che ho sentito per quanto riguarda il CT della Nazionale. Io sono uno di quelli che ritiene, da tifoso juventino, che è vero che nella vita bisogna avere fortuna, ma il CT della Nazionale fino adesso ne ha avuta tanta, sia quando allenava la Juve, sia quando è tornato alla Juve e sia con la Nazionale. Cioè, adesso Sacchi non era l'ultimo arrivato, non sono mai stato un estimatore, ha perso i mondiali, la finale ai rigori, lui l'ha vinta, ma come gioco 100 volte quello che avevo visto, anche se sono un po' più giovane, ai mondiali d'America rispetto a quello che ho visto l'ultimo mondiale. Lui è strafortunato, il suo valore penso in buona parte sia quello che si è visto nella sua parentesi interista, per cui un po' meno di arroganza, di supponenza, di onnipotenza nei confronti di tutti, perché senza Moggi, Giraudo e Bettega, lo dico da tifoso juventino, forse avrebbe vinto qualche cosa in meno, perché in campo europeo si è visto poi la Juve che cosa faceva in quegli anni in cui si dichiarava, si è conclamata, diciamo, si è affermata la bravura di questo allenatore. Io ritengo che l'unico allenatore, a mio avviso, non me ne intendo molto, che sia veramente un allenatore che fa la differenza, è il signor Fabio Capello, che io ammiro oltre ogni cosa. Michele, la ringrazio, l'intervento si sta prolungando un pochino oltre i limiti, tra l'altro siamo anche in chiusura, dobbiamo anticipare leggermente oggi, sicché grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, tra poco il giornale radio.